Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Settimo. Mosca, Parigi, Repubblica Serba di Krajina, 1990-1993. Nei suoi ultimi mesi di vita, Sakharov, ormai stremato, non smetteva di ripetere a Gorbaciov: «La scelta è semplice, Mikhail Sergeevich. O si schiera con i democratici, sapendo perfettamente che hanno ragione, o si schiera con i conservatori, sapendo perfettamente che non soltanto hanno torto, ma anche che la tradiranno. Non serve a niente prendere tempo». «Sì, sì, Andrei Dmitrievich», sospirava Gorbaciov, un po' infastidito. Non riusciva a mandar giù che, secondo i sondaggi, Sakharov fosse l'uomo più popolare del paese. «Giustissimo. Prima però bisogna riformare il partito». «Niente affatto», rispondeva Andrei Dmitrievich, con la sua voce chiara. «Non bisogna affatto riformare il partito, ma liquidarlo. Questa è la prima necessaria condizione per una vita politica normale». Quando cominciavano con questi discorsi, Gorbaciov non li ascoltava più. Il partito era il partito. Così, da buon politico, si barcamenava nel tentativo di non scontentare nessuno, prendendosi un giorno per il Papa e il giorno dopo per Lutero, con il risultato di farsi odiare sia dai democratici sia dai conservatori. «Le nostre categorie politiche mal si adattano alla situazione russa, dove destra e sinistra non significano granché. Tuttavia queste due parole non mi sembrano del tutto fuori luogo. Alla fine i democratici volevano la democrazia e i conservatori conservare il potere. I primi, gente di città, piuttosto giovani e acculturati, da principio stravedevano per Gorbaciov, ma ora erano delusi dalla sua mancanza di coraggio nel proseguire sulla strada intrapresa, e alla parata del 1° maggio 1990 sulla Piazza Rossa lo hanno apertamente contestato. Ormai era permesso, ed è una sofferenza pensare che l'uomo a cui il suo popolo doveva, nonostante tutto, la liberazione, abbia dovuto subire gli insulti che la gente aveva sognato di rivolgere senza averne il coraggio a Brezhnev e alla sua cricca. Al diavolo il partito e al diavolo pure Gorbaciov. A ogni modo, non erano quelli gli scontenti più pericolosi. Quando al funerale di Sakharov un giovane aveva paragonato il defunto a Obi-Wan Kenobi e Gorbaciov a un impacciato Jedi, il giornalista gli aveva chiesto chi fosse secondo lui Darth Vader. E il ragazzo aveva risposto che purtroppo i candidati non mancavano. Infatti, nel Politburo e nel complesso militare-industriale c'era solo l'imbarazzo della scelta in tema di hardliners, come gli anglosassoni chiamano i conservatori veramente tosti. Ma, in linea con la grande tradizione sovietica, erano quanto mai anonimi e privi di carisma, il che ha garantito un certo successo mediatico a un personaggio minore oggi caduto nell'oblio, il colonnello Viktor Alksnis. Eduard lo ha conosciuto durante un breve soggiorno a Mosca, in uno studio televisivo. Erano stati entrambi invitati ad assumere il ruolo di anti-Gorbaciov di turno in un dibattito con alcuni democratici, ex dissidenti e membri di Memorial. Vestito di pelle nera, con un ghigno feroce stappato in faccia, Alksnis sembrava un attoruccolo che ce la mette tutta per ottenere la parte del cattivo che getta i nemici in pasto ai coccodrilli. Rappresentante in Parlamento dei militari sovietici di stanza in Lettonia, denunciava ai separatisti baltici, caldeggiava l'introduzione della legge marziale e invocava l'unione sacra di marxisti-leninisti, stalinisti, neofascisti, ortodossi, monarchici e pagani per salvare il paese dallo sfacelo a cui lo stava conducendo della gente che non lo amava e voleva asservirlo allo straniero. Poiché stiamo cominciando a conoscere il discernimento politico del nostro, non ci stupisce che lui e Alksnis siano andati subito d'amore d'accordo. Dopo la trasmissione, il colonnello nero, come veniva chiamato Alksnis, ha presentato Eduard ai suoi fratelli d'armi. Ne risparmio i nomi al lettore. Basti dire che si trattava di un'allegra brigata di militari e cechisti, lettori del Mein Kampf e dei protocolli dei Savi di Sion, editori di fogli ultranazionalisti come Dien, il giorno, che si autoproclamava il giornale dell'opposizione spirituale e il cui caporedattore veniva chiamato dai democratici usignolo dello Stato Maggiore. Lì Eduard ha esordito come giornalista russo e quando è tornato a Parigi, lui e Alksnis si sono mantenuti in contatto, Si telefonavano, si spedivano fax, si gasavano a vicenda con l'idea di un colpo di Stato che sembrava imminente. Gorbaciov era in una posizione sempre più difficile, ma era anche, bisogna pur dirlo, sempre più cieco. Nel gennaio del 1991, approfittando del fatto che tutto il mondo stava seguendo alla televisione la prima guerra del Golfo, i carri armati russi sono entrati a Vilnius, ma poi, avendo incontrato resistenza, si sono ritirati, lasciando sul terreno una quindicina di morti. Questa domenica nera ha definitivamente screditato Gorbaciov agli occhi dei democratici. Chi avrebbe voluto, d'ora in avanti, sentir parlare ancora di socialismo dal volto umano? Per scaricarsi da ogni responsabilità del tentativo di invasione e del suo insuccesso, Gorbaciov ha sostenuto di non saperne niente e ci si chiedeva che cosa fosse peggio, essere un bugiardo o essere completamente fuori dai giochi. Senza preoccuparsi di informarlo, l'esercito intensificava i movimenti di truppe e gli incidenti lungo i confini, preferibilmente in occasione dei vertici internazionali, per metterlo in imbarazzo davanti alla sua cara opinione pubblica occidentale. Ma, fatto curioso, Gorbaciov non sembrava affatto in imbarazzo. Al contrario, nelle fotografie appariva ancora più sorridente. In quanto segretario generale del partito, aveva ricevuto il mandato soltanto dal partito e guardava dall'alto in basso quel cosiddetto democratico di Boris Yeltsin che era appena stato eletto presidente della Russia a suffragio universale, il che accresceva il prestigio di Yeltsin, ma Gorbaciov non sembrava rendersene conto. Il fedele Shevardnadze rassegnava le dimissioni da ministro degli esteri, dichiarando pubblicamente che si era prossimi a una dittatura e Gorbaciov ignorava l'avvertimento. L'ancor più fedele Yakovlev non dava le dimissioni, ma ogni volta che si congedava da un giornalista gli diceva arrivederci alla prossima, sempre che non finisca in Siberia. Con la forza della disperazione, Yakovlev cercava di mettere in guardia il suo capo contro l'ostilità sempre più aperta del Politburo, ma Gorbaciov faceva spallucce e rispondeva «Non si preoccupi, lei ha la tendenza a esagerare, li conosco bene, sono bravi ragazzi un po' testoni. È tutto sotto controllo». Con tale fiducioso stato d'animo, Gorbaciov lascia Mosca per andare a godersi una meritata vacanza in Crimea, nella sontuosa villa che si è fatto costruire. Ed è qui che all'improvviso gli tagliano il telefono, lo isolano completamente e circondano la proprietà. Intanto, un gruppetto di generali, di cui stavolta cito i nomi perché nonostante tutto appartengono alla storia, Khrushchev, Yazov, Pugo e Yanayev, proclama lo stato d'emergenza e comincia subito a fare pasticci, affidando il potere al più inetto di loro, il vicepresidente Yanayev. Il malcapitato trascorrerà i 4 giorni successivi nel panico più totale, al punto che dovranno farlo uscire a forza dall'ufficio in cui si è barricato per convincerlo a tenere una conferenza stampa alla televisione. Nonostante il tentativo di imbavagliare i media come in passato, si vedrà Yanayev con le mani tremanti e lo sguardo smarrito, presentato come un vincitore eppure già sconfitto. La cosa più strana del golpe avvenuto nell'agosto del 1991 è proprio la sensazione che sia tutta una farsa. E questo è dovuto alla personalità dei cospiratori, che erano non solo dei mediocri, ma soprattutto delle vere spugne. I 4 si sono ritrovati ben presto ebri. Non ebri di potere, no, sbronzi, ubriachi fradici, in preda a una scuffia colossale. E siccome gli era presa la sbornia triste, hanno capito subito che la cosa non avrebbe funzionato, che stavano per fare un'enorme cazzata, ma che era troppo tardi per tornare indietro. Ormai era stato dato il via, i carri armati stavano entrando a Mosca e loro dovevano andare avanti, anche se non se la sentivano più. Avrebbero preferito infilarsi a letto con un'aspirina e un barattolo di cetriolini, tirarsi le coperte fin sopra la testa e aspettare che passasse la buriana. Sul momento però, i democratici hanno creduto quello che da qualche anno avevano smesso di credere, che dopo un secondo disgelo la banchisa si sarebbe richiusa e che erano stati dei pazzi a fidarsi invece di scappare finché erano in tempo. Il golpe avrebbe potuto avere successo. Dipendeva tutto dall'esercito. I giovani chiamati alle armi, che avevano ricevuto l'ordine di puntare su Mosca ed erano terrorizzati di dover fare quello che avevano fatto i loro padri a Praga nel 1968, hanno mostrato grande coraggio nell'obbedire, anziché ai propri superiori, a Yeltsin, che li esortava a restare dalla parte della legge e dello Stato. Dimostrando di saper sfruttare i simboli, Yeltsin ha organizzato la resistenza davanti alla sede del Parlamento, che a Mosca viene chiamato Casa Bianca, e in quei giorni passati alla storia, il mondo intero ha conosciuto una Casa Bianca che non era quella di Washington. Questa Casa Bianca è divenuta il teatro della lotta russa per la democrazia. L'immagine gloriosa dell'agosto del 1991, degna del giuramento del Terzo Stato nella sala della Pallacorda o di Napoleone al Ponte di Arcole, è la fotografia di Yeltsin sopra un carro armato dinanzi alla Casa Bianca. È Rostropovich a corso a montare la guardia davanti alla porta dell'ufficio di Yeltsin alla Casa Bianca. Sono i moscoviti venuti in massa a difendere la Casa Bianca, innalzando barricate e facendo scudo alla libertà con i propri corpi. Sono i carri armati che fanno marcia indietro, le ragazze che baciano i soldati e infilano fiori nelle canne dei loro fucili. È l'immenso sospiro di sollievo del quarto giorno, perché l'incubo non è diventato realtà e i russi continueranno a vivere liberi. 20 anni dopo, i giovani delle città, quelli che raccontavano la storia del proprio paese richiamandosi a Star Wars, ricordano l'agosto del 1991 come uno dei momenti più intensi della propria vita, un film dell'orrore che fa morire di spavento ma ha un finale da urlo. L'URSS che ritorna, roba da flippare di brutto. L'URSS che sprofonda nel ridicolo, roba da sballo, perché era anche bello, bello e giusto, che gli eredi di 70 anni di oppressione non uscissero di scena con un finale da Crepuscolo degli Dei, wagneriano, ma tagliassero la corda coperti di ridicolo. Dei pagliacci, che ormai non facevano più paura a nessuno, che in tutto il mondo avevano ricevuto soltanto il sostegno di Castro, Gheddafi e Saddam Hussein, gli unici superstiti della setta dei poeti estinti, ma anche del nostro presidente Mitterrand, il quale, convinto com'era di saperla più lunga di chiunque altro, aveva spinto il machiavellismo fino alla stupidità. E quando gli rimproverarono l'eccesso di fretta mostrato nel congratularsi con quelli che pensava fossero i nuovi padroni dell'URSS, aveva risposto altezzoso che i generali sarebbero stati giudicati sulla base delle loro azioni. Come se un golpe non fosse già di per sé un'azione, eppure di un certo peso. La storia continua con Gorbaciov che torna dalla Crimea assurdamente abbronzato, senza aver capito nulla dell'accaduto, serbando della vicenda soltanto il ricordo dei disagi sopportati da lui e dai familiari, isolati dal mondo, nella loro villa da emiri arabi, con il suicidio di 3 golpisti, e per fortuna che c'è Eduard a piangerli, perché qualsiasi cosa si possa pensare delle sue scelte, lui almeno è fedele e onora gli sconfitti, e con quell'incredibile gag del 23 agosto, trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo. La seduta del Parlamento in cui Yeltsin, dopo aver costretto Gorbaciov a leggere con voce malferma i verbali del Consiglio in cui i suoi ministri hanno deciso di tradirlo, si gira verso il segretario con aria golosa. Ah, dimenticavo, c'è anche questo piccolo decreto da firmare. Un piccolo decreto? Chiede Gorbaciov confuso. Sì, quello che sospende l'attività del Partito Comunista di Russia. Come? Cosa? Farfuglia Gorbaciov. Ma io non l'ho letto, non ne abbiamo discusso. Non importa, dice Yeltsin. Forza, Mikhail Sergeevich, firmi. E Gorbaciov firma. La storia continua con l'abbattimento subito dopo della statua di Dzerzhinsky in piazza della Lubianca, sede del KGB, con la sostituzione della bandiera rossa con quella tricolore del governo provvisorio del 1917 e soprattutto di lì a pochi mesi con un'altra sbronza storica, quella che vede riuniti in gran segreto, in un padiglione di caccia nella foresta di Białowieże, il presidente russo Yeltsin, il presidente ucraino Kravchuk e il presidente bielorusso Suskievich. Yeltsin è partito da Mosca senza rivelare niente del proprio piano a Gorbaciov. Non è stato preparato nulla e nessuno dei cospiratori ha la minima idea di che cosa sia una federazione o una confederazione. Tutti e tre, nella sauna del padiglione di caccia, tracannano una vodka dopo l'altra, non fanno che ripetere che l'Unione l'hanno creata le loro repubbliche nel 1922 e perciò hanno il diritto di scioglierla. Yeltsin è talmente ubriaco che per portarlo a letto gli altri due devono sollevarlo di peso. E poco prima di sprofondare nel sonno, il presidente russo chiama George Bush Senior per dargli la notizia in anteprima. «George, io e i miei amici ci siamo messi d'accordo. L'Unione Sovietica non esiste più». Per rendere completa l'umiliazione, l'incarico di avvertire Gorbaciov viene affidato al più insignificante dei tre, Shushkevich, il quale racconterà poi che Gorbaciov, attonito, gli ha risposto: «E io che fine faccio in tutto questo?» Che fine farà? Diventerà un facoltoso pensionato, a cui saranno concesse una dacia, una fondazione e la possibilità di tenere conferenze lautamente retribuite fino alla fine dei suoi giorni. Considerata la prassi in vigore in Russia dal Medioevo in poi, per uno zar deposto è un trattamento di eccezionale clemenza. Nello scontro fra gladiatori che ha opposto Gorbaciov a Yeltsin, sin dall'inizio i francesi si sono schierati dalla parte del primo. E quasi mi sorprende che gli siano rimasti tanto fedeli sul piano sentimentale. Yeltsin veniva considerato, e le cose non sono migliorate durante il suo regno, un rozzo soldataccio che dopo il golpe dell'agosto 1991 aveva assunto un ruolo poco chiaro. Il nostro eroe era Gorbaciov, che i cattivi avevano voluto rovesciare. Yeltsin aveva tirato Gorbaciov fuori dei guai, ma poi non aveva fatto altro che procurargliene altri, sicché non si capiva molto bene se stesse fra i buoni o i cattivi. I suoi discorsi rasentavano il populismo e a qualcuno sembrava persino che avesse una faccia da dittatore. In Francia, soltanto mia madre, ma la stragrande maggioranza dei russi la pensava come lei, parlava di Gorbaciov come di un apparatchik sopraffatto dalle forze che lui stesso aveva involontariamente messo in moto, e di Yeltsin come dell'uomo che incarnava l'aspirazione del suo popolo alla libertà. Yeltsin aveva avuto il coraggio di rompere con il comunismo, nel cui grembo era cresciuto. Aveva seguito accanto a Yelena Bonner il feretro di Sakharov. Era il primo presidente eletto che la Russia avesse mai avuto. Aveva difeso la Casa Bianca come Lafayette aveva preso la Bastiglia, dichiarato fuori legge il partito che soffocava le coscienze e sciolto l'Unione che teneva prigioniere le nazioni. In 2 anni era incontestabilmente diventato un personaggio storico di primissimo piano. Sarebbe riuscito, sfruttando quello slancio, a creare una democrazia, un'economia di mercato, una società nuova in un paese sino allora condannato all'arretratezza e all'infelicità? Consapevole della propria ignoranza in campo economico, Yeltsin ha tirato fuori dal cilindro un giovane prodigio, che si chiamava Yegar Gaidar, una specie di Jacques Attali russo un po' grassoccio, proveniente dall'alta nomenclatura comunista e dotato di una fede assoluta nel liberalismo. Nessun teorico della scuola di Chicago, nessun consigliere di Ronald Reagan o di Margaret Thatcher credeva con lo stesso fervore di Yegar Gaidar nelle virtù del mercato. Si trattava di una sfida colossale, perché la Russia non aveva mai conosciuto qualcosa che somigliasse anche solo lontanamente al mercato. Yeltsin e Gaidar hanno pensato che fosse necessario agire in fretta, molto in fretta, procedere con fermezza per battere sul tempo la reazione che aveva avuto la meglio su tutti i riformatori russi dai tempi di Pietro il Grande. La pillola che bisognava far ingoiare l'hanno chiamata terapia shock. E uno shock lo è stato davvero. Tanto per cominciare, sono stati liberalizzati i prezzi, con il risultato che l'inflazione è schizzata al 2600% ed è fallita l'iniziativa, adottata in parallelo, della privatizzazione con il sistema dei buoni. Il 1 settembre 1992 erano stati spediti per posta a ogni russo con più di un anno di età buoni per il valore di 10.000 rubli, il che corrispondeva alla quota di ogni cittadino nell'economia del paese. Dopo 70 anni in cui, in teoria, nessuno aveva avuto il diritto di lavorare per sé, ma soltanto per la collettività, L'idea era quella di stimolare l'interesse personale e favorire la nascita di imprese e proprietà private, insomma del mercato. Purtroppo però, a causa dell'inflazione, appena recapitati, i buoni non valevano più niente. I beneficiari hanno scoperto che ci si poteva comprare tutt'al più una bottiglia di vodka. Così li hanno rivenduti in massa ad alcuni furbetti, che in cambio hanno offerto loro l'equivalente, diciamo, di una bottiglia e mezzo. Questi furbetti, che nel giro di qualche mese sono diventati re del petrolio, si chiamavano Boris Berezkovsky, Vladimir Gusinsky, Mikhail Khodorkovsky. Ce n'erano altri, ma per non tediare il lettore, gli chiedo di tenere a mente solo questi tre nomi: Berezkovsky, Gusinsky, Khodorkovsky. Timmy, Tommy e Jimmy, i tre porcellini che, come nelle compagnie teatrali squattrinate dove ogni attore recita più ruoli, incarneranno nelle prossime pagine tutti quelli che sono stati chiamati oligarchi. Erano giovani, intelligenti, pieni di energia, non disonesti per vocazione, soltanto erano cresciuti in un mondo in cui era vietato fare affari, attività per la quale avevano un vero talento, e da un giorno all'altro si erano sentiti dire «fatevi sotto». Senza regole del gioco, senza leggi, senza sistema bancario e fiscale. Del resto, lo aveva già detto il giovane ed entusiasta gorilla di Julian Semyonov, era il Far West. Chi tornava in Russia ogni 2 o 3 mesi, come faceva Edward, tra una puntata e l'altra nei Balcani, restava sgomento di fronte alla rapidità con cui Mosca stava cambiando. La gente aveva creduto che il grigiore sovietico sarebbe durato per l'eternità, e adesso, lungo le strade che avevano portato i nomi di grandi bolscevichi e che si chiamavano di nuovo con i loro nomi pre-rivoluzionari, si accavalavano insegne luminose fitte come a Las Vegas. C'erano ingorghi, e accanto alle vecchie Giguli, Mercedes nere con i vetri oscurati. Si trovava senza difficoltà tutto quello che un tempo i turisti stranieri infilavano in valigia per far contenti gli amici russi. Jeans, CD, cosmetici, carta d'accesso. Non si faceva in tempo ad abituarsi alla comparsa di un McDonald's in piazza Pushkin, che subito accanto apriva un locale alla moda. Prima i ristoranti erano enormi, tetri, i maitre sembravano impiegati di malumore e vi portavano dei menù di 15 pagine, ma qualsiasi piatto aveste scelto, potevate star certi che era terminato. Di fatto ce n'era soltanto uno, di solito immangiabile. Adesso le luci erano soffuse, le cameriere carine e sorridenti. Si ordinava manzo di Kobe e ostriche arrivate in giornata da Kiberon. Il personaggio del nuovo russo, con i suoi rotoli di banconote e uno stuolo di ragazze appariscenti al seguito, con la sua brutalità e la sua cafonaggine, entrava nella mitologia contemporanea. Barzelletta d'epoca, due giovani uomini d'affari si accorgono di avere lo stesso abito. «Io l'ho pagato $5,000 in Avenue Montaigne», dice l'uno. E l'altro, trionfante, «Ah sì? Io l'ho avuto per 10,000». Per 1 milione di dritti che hanno iniziato ad accumulare freneticamente quattrini grazie alla terapia shock, 150 milioni di fessi sono caduti in miseria. I prezzi continuavano a salire, ma gli stipendi restavano fermi. Con la sua pensione, un ex ufficiale del KGB come il padre di Limonov poteva a stento comprarsi 1 chilo di salame. Un ufficiale di grado più elevato, che aveva mosso i primi passi nel settore informazioni a Dresda ed era stato rimpatriato d'urgenza, perché la Germania dell'Est non esisteva più, si ritrovava senza lavoro, senza alloggio di servizio, ridotto a fare il tassista abusivo nella sua città natale, Leningrado, maledicendo i nuovi russi con la stessa veemenza di Limonov. Questo ufficiale non è un'astrazione statistica. Si chiama Vladimir Putin, ha 40 anni, pensa, come Limonov, che la fine dell'impero sovietico sia la più grande tragedia del XX secolo ed è destinato, insieme ad altri, a svolgere un ruolo non trascurabile nell'ultima parte di questo libro. L'aspettativa di vita del maschio russo è passata dai 65 anni del 1987 ai 58 del 1993. Il triste spettacolo delle file in attesa davanti ai negozi vuoti, caratteristico dell'era sovietica, è stato sostituito da quello dei vecchietti, che tremano di freddo nei sottopassaggi, dove cercano di vendere le poche cose che gli sono rimaste. Tutto quello che può essere venduto per sopravvivere viene venduto. Un povero pensionato venderà un chilo di cetriolini, un copritaiera o dei numeri mal ridotti di Crocodil, il pietoso foglio satirico degli anni di Brezhnev. Un generale venderà carri armati o aerei. Alcuni non si sono fatti scrupolo e hanno aperto compagnie private con gli aerei dell'esercito, intascando i profitti. Un giudice metterà in vendita le sue sentenze, un poliziotto il silenzio. Un impiegato venderà un timbro su un documento, un veterano dell'Afghanistan, le sue competenze di killer. La cifra richiesta per un omicidio è compresa tra i 10.000 e i 15.000 dollari. Nel 1994 a Mosca sono stati assassinati 50 banchieri e della banda di uno squalo come Semyonov soltanto la metà era ancora viva e Semyonov stesso è finito al cimitero. Mio cugino Paul Klebnikov è arrivato in Russia in quel momento. Anche i suoi nonni erano scappati dalla rivoluzione del 1917, ma a differenza dei miei si erano trasferiti negli Stati Uniti. Sicché Paul era americano come io sono francese. Lui però parlava il russo meglio di me. Avevamo la stessa età e benché fossimo separati dall'Atlantico, ci conoscevamo fin da piccoli. Gli ero molto affezionato e i miei figli lo adoravano. Paul era il loro modello, l'immagine che può avere un ragazzino del grande reporter. Bello, ben piantato, sorriso aperto, stretta di mano decisa, in pratica il Mel Gibson di un anno vissuto pericolosamente. Lavorava per Forbes e nel 1994 la rivista lo ha inviato a Mosca per fare un'inchiesta sulla criminalità economica. Al suo arrivo Paul ha riempito l'agenda di appuntamenti, ma parecchi dei suoi contatti sono stati uccisi prima che li potesse incontrare. Si è fatto coinvolgere dalla situazione così tanto che ha deciso di rimanere. È diventato il corrispondente da Mosca di Forbes e da quel grande giornalista investigativo che era, ha portato avanti la sua inchiesta e ne ha tratto un libro che, partendo dal caso di Boris Berezovsky, spiega nei particolari come sotto Yeltsin sono stati costruiti i più grandi patrimoni russi. Poi anche lui è stato abbattuto da una raffica di mitra all'ingresso del palazzo in cui abitava, proprio come Anna Politkovskaya. Finora le indagini sul suo assassinio, come su quello della Politkovskaya, non hanno dato alcun risultato. I pesci grossi si uccidevano tra loro per dei combinati industriali o dei giacimenti di materie prime. Quelli piccoli per un chiosco o un posto al mercato. E il più misero chiosco, il più infimo posto al mercato, doveva avere un tetto. Così venivano chiamati gli innumerevoli servizi di vigilanza, che erano tutti più o meno delle imprese criminali, dato che chi ne rifiutava le prestazioni finiva con una pallottola in corpo. Le holding di oligarchi come Gusinski o Berezovsky avevano alle loro dipendenze veri e propri eserciti, al comando di alti ufficiali del KGB che avevano messo le loro competenze al soldo di privati. A un livello più artigianale, la protezione indispensabile per fare affari veniva assicurata per metà dalla mafia georgiana, cecena o azera e per metà dalla polizia, che era diventata una mafia come le altre. A riguardo ho una storia interessante. Il protagonista è il mio amico Jean-Michel, un francese che, dopo aver perso la moglie nell'incidente aereo della TVA nel 1995, è andato a Mosca per rifarsi una vita. Come altri, si arruolerebbero nella legione straniera. Lì ha aperto ristoranti, bar, locali notturni, che sono in realtà bordelli per nuovi russi e ricchi espatriati. Se ne può pensare quel che si vuole sul piano morale, ma costruire un simile impero, partendo dal nulla, senza quasi parlare russo, in un'epoca in cui bastava una parola sbagliata per ritrovarsi sul fondo della Moscova con i piedi nel cemento, richiede nervi talmente saldi da fare invidia anche al nostro esigente Edward. Ci vorrebbe Scorsese per scrivere un'avventura del genere, e non intendo provarci io. Racconterò soltanto un episodio. Una sera, in uno dei locali di Jean-Michel, fanno irruzione truppe scelte in tenuta da combattimento con i volti coperti da passamontagna, terrorizzando le ragazze, il personale e i clienti, che vengono fatti sdraiare a terra sotto la minaccia dei Kalashnikov. Una volta creata l'atmosfera, il capo si toglie il passamontagna, si siede, ordina da bere e spiega tranquillamente a Jean-Michel che il suo tetto non è sicuro e va cambiato. Ormai la polizia, perché quel comando è la polizia, si occupa di tutto. Jean-Michel dovrà pagare un po' di più, ma sarà più sicuro e il passaggio avverrà senza problemi. Il capo si prende l'impegno di spiegare la situazione ai protettori precedenti e garantisce che tutto filerà liscio. Prima di andarsene, regala a Jean-Michel il CD del gruppo rock formato da alcuni dei suoi uomini. Tutto andrà come promesso. Jean-Michel non si è pentito di aver cambiato tetto e non gli dispiace far ascoltare il CD ai suoi amici, tanto per divertirsi. È stato fortunato. In altri casi, questo tipo di incidente si è trasformato in un massacro di San Valentino. Poco prima di morire, non molto tempo fa, l'ex primo ministro Yegar Gaidar ha confidato a un giornalista. Deve capire che la scelta che avevamo di fronte non era fra una transizione ideale all'economia di mercato e una transizione con infiltrazioni criminali. La scelta era fra quest'ultima e la guerra civile.